questo è il 47esimo sgombero di un immobile importante che facciamo da quando siamo al governo della città, e siamo contenti che il nostro modello di lavoro è un modello che, a differenza di altre esperienze in Italia, funziona. Aver fatto 47 sgomberi in 5 anni vuol dire segnare un record. Mai a Firenze si è raggiunto un livello di questo tipo. Rassegna eventi. Allora Anna arriva, ti aiuta, però non ti aiuta, dopo fai fuori. Albergo popolare, 6 mesi lo sanno anche noi. La vita non sono 6 mesi, anche gli italiani. Anche noi non sono la vita 6 mesi. La vita ci vuole crescere, ci vuole mano, ci vuole in casa, ci vuole per la persona, ci vuole a casa, ha bisogno di casa, ha bisogno per vivere, ha bisogno come vivere anche le gente, quelle che hanno banca, quelle che hanno fregare le gente povere, anche italiane, anche per la straniera, quelle che sempre cooperativa, quelle che hanno per fregare le gente. Comunque, grazie a Dio e grazie a voi, noi siamo qua, non si va un'altra parte. Questa era la voce degli occupanti di Via Baracca numero 1, anzi numero 1 dal 2 al 18, sì, che hanno rischiato uno sgombero questa settimana. Qui è la trapunta, siamo in regia, c'è il buon Mario, c'è Bricobaldo, abbiamo anche un sacco di ospiti, abbiamo Leo, abbiamo Andreas che fra poco ci racconteranno un sacco di cose. Abbiamo iniziato così la puntata perché questo è stato un tema caldo della settimana, lo sgombero di uno stabile, anzi il tentato sgombero dei due stabili, quello riuscito è quello esclusivamente di Via Baracca 48. Noi eravamo lì, abbiamo pubblicato un articolo e mandato in diretta l'assemblea che si è svolta nel pomeriggio proprio del 3 dicembre. La trovate sulla pagina Wombat, che è posta Wombat, wombat.noblogs.org. Quello che tu ci stavi ricordando era sicuramente invece come contattarci. Esattamente, abbiamo la mail aperta postawombat@insiberia.net. Potete iscriverci anche su Facebook, abbiamo una pagina anche se la usiamo un po' così a intermittenza, è Radio Wombat Firenze. Male, ma forse anche perché ci sta un po' sul cazzo, bene, diciamo. Così sì, ci sta un po' sul cazzo Facebook. Quindi siamo ancora in questo dubbio, ma lo usiamo o non lo usiamo? Direi, insomma, è una discussione che va avanti da tempo, non solo in Radio Wombat, ma un po' anche in tutti gli ambienti dei movimenti, no? Perché alla fine è un po' assurdo, almeno per alcuni, usare degli strumenti del capitale per una lotta anticapitalista. O magari invece soltanto per conoscere qualche evento che c'era in città, cosa che ad oggi non è più necessaria, almeno qua nella nostra bella Firenze, perché abbiamo la possibilità di vedere tutto quanto su lapunta.org. È proprio così. Il nostro nuovo sito degli eventi, dagli spazi collettivi, movimenti di Firenze. Autogestito, ci troviamo di tutto, dalle serate agli incontri, alle presentazioni, ai presidi, alle manifestazioni. È un grande calendario che contiene tutti gli eventi del sottosuolo fiorentino. Lo slogan dice, se non mi sbaglio, lotte, culture, autogestioni. È un po' la sintesi di quello che vuole essere e di quello che è, si può dire, la punta.org. Ti annuncio anche, amico mio, che è in grande aggiornamento. Fra è in grande aggiornamento, è vero, ci saranno delle nuove... come si dice? Rubriche. No, scherzo. No, ci saranno delle nuove skills per la punta. Sì, perché come ci spiegava Bonginox, è una piattaforma veramente all'avanguardia e non smette mai di stupirci. Perché siamo così. Bene, ma... Noi siamo alla quinta puntata, se non mi sbaglio. Siamo alla quinta felicissima puntata di questa trapunta. Benissimo. Quindi magari anticipiamo un minimo che cosa succederà in questa puntata della trapunta. Abbiamo sentito l'apertura con il nostro beneamato sindaco Dario Nardella, che quello era uno sgombero, non si stava parlando dello sgombero della settimana scorsa, bensì lui si riferiva, il 47esimo sgombero era quello del Pergolino, se non mi sbaglio, si risale al febbraio di quest'anno, ancora non c'erano le elezioni, ancora non era stato rinnovato, quindi doveva un po' cavalcare i suoi cavalli di battaglia. Quello degli sgomberi è uno di questi. E non ci sembra che anche dopo il rinnovo comunque del suo ruolo da sindaco abbia... No, non ha, però diciamo che l'ha un po' pompata, ma l'ha pompata sì, un po' meno, è rimasto più su toni bassi, sordina. Esatto. Comunque ora poi vi aggiorneremo anche con tutta la lista dei 47, a questo punto 48 o 49 sgomberi dell'amministrazione Nardella. Li ha musicati per noi un nostro caro amico. E comunque nel 2019, se ti posso dire, nel suo nel suo delirio, no, non c'è delirio, sì, ha effettuato l'amministrazione comunale, ha approvato solo 3 sgomberi, che sono, dice, vabbè, cazzo, sti cazzi, solo 3 sgomberi. Effettivamente in un paio di sgomberi, quelli di febbraio di quest'anno, sono state mandate fuori per la strada più di 150 persone, però rispetto agli anni scorsi sono molti meno, perché il record, se non mi sbaglio, è stato toccato nel 2017-2018. Ora appena riesco a aprire il file ve lo dico. E eccoci, stiamo arrivando. Esattamente, nel 2018 gli sgomberi furono 11, nel 2017 4, nel 2016 ben 13 sgomberi, nel 2015 il record con 14 sgomberi. Quindi niente, quest'anno perché viene stato uno il 13 febbraio in via Baracca 29, sempre la stessa via dove sono state mandate fuori 50 persone, il 21 febbraio in via del Pergolino 100 persone di cui 30 minori, sì, e poi no 3, e poi di nuovo via Baracca, questa volta erano circa 80 persone di cui 45 sono state accolte in progetti, e mentre le altre invece no, sono andate così, hanno cercando soluzioni per conto proprio, e presumibilmente saranno altre occupazioni. Comunque basta, non vi annoio più. Aspetta, a proposito, prima parlavi del nostro, ci siamo distratti che sta arrivando un altro dei nostri ospiti, sì, per la puntata, quindi siamo carichissimi, andiamo avanti veloce. Ci sentiamo, direi, dopo la canzone per gli aggiornamenti di questa settimana. Certo, da Firenze. Ma prima che cosa facciamo sentire? Ce l'hai raccontato prima di un nostro amico che... Sì, è un nostro amico che fondamentalmente ha musicato, ha messo in musica questa lista che io gli ho fornito con i fantomatici, fantastici 47 sgomberi rivendicati dall'amministrazione Nardella nella persona del sindaco. E quindi, niente, gustatelo. Eh sì. Dai, giugno 2014. Signor sindaco, entra in carica. Il 5 giugno, via Piercapponi, 20 persone. Mentre l'8 agosto, in via Slata, per 150 migranti. Per chiudere 2014, il 23 dicembre, in piazzale Michelangelo, erano 3 le persone sgomberate. L'anno successivo, nel 2015, gli sgomberi sono stati ben 14. Cominciando il 3 marzo, all'ex stessa di Villa Fanfane, 10 persone. E il giorno dopo, in via Taselli, erano 100 persone prima, e in via Baracca altre 20. Il 17 a Ponte Annicchieri erano 10 le persone sgomberate, il 31 in via del Romito 100, il 20 maggio all'ex TNR a Scandicci erano 37 le persone, il 26 maggio al Casolare dell'Orbatello erano 100 le persone sgomberate, il 22 giugno all'ex Sun Chemical erano 10 persone, il 26 giugno all'ex SAD del Ponte di Mezzo erano ben 50 le persone, il 12 agosto all'ex Collegio Querce 150 persone, il 29 settembre a Quaracchi 60 Rom, il 7 novembre in via Liguria 7 persone, il 9 dicembre in Galle Toscana 100 persone, il 15 dicembre a Bello Sguardo altre 3 persone. E nel 2016 13 sono stati gli sgomberi. Cominciati il 19 gennaio all'ex Aiazzone, ben 60 migranti, il 23 febbraio in via Pistoiese 4 persone, il giorno dopo in via del Romito 60 persone, il 10 marzo all'ex Pellicceria allo Smannoro 30 persone, il 14 giugno in via Baracca 30 persone, il 5 agosto in via Toselli 12 persone, il 26 agosto in via Patese 20 persone, il 5 ottobre a San Salvi 7 persone, il 14 ottobre all'Exata 3 persone, 17 novembre a Robezzano in via Rocca Pedalda un altro sgombero e il 25 novembre in via Nigra ben 100 persone, il 6 dicembre in via Senti 30 persone, il 14 dicembre per chiudere c'è stato lo sgombero dell'ex indiano. E nel 2017, quattro sgomberi, cominciati il 27 aprile in via Baracca con 70 migranti sgomberati, il 10 maggio al Ponte del Mugnone un altro sgombero, e il 12 luglio in via novembre in via Spaventa Gesuiti altre 70 persone. E il 18 gennaio del 2018 sono cominciati gli sgomberi di quell'anno alla Crepa in via Foggini, seguiti il 20 giugno in via del Romito 61 agli alloggi dell'Invimit e il 20 febbraio all'ex Lupi di Toscana altre 100 persone, mentre il 21 marzo alle piagge al casone di via dell'Osteria 11 persone, il 16 luglio al Parlungo in via Generale della Chiesa 4 persone e 3 giorni dopo un altro sgombero al Poderaccio e il 20 luglio un altro sgombero al Canile del Termine e il 28 luglio 3 tende e 15 materassi alle Cascine e l'11 ottobre all'ex Becagli altre 30 persone sgomberate, mentre il 24 ottobre all'ex Agenzia delle Entrate in via Panciati 200 persone. In chiusura d'anno l'8 dicembre all'Hotel Concord 40 persone. Nel 2019 gli sgomberi che contiamo sono due. Beh, per ora. Il 13 febbraio in via Baracca 29, 50 persone. E il 21 febbraio al Pergolino 100 persone. Gli sgomberi sono stati 47, più di 2000 persone sgomberate. Potente, amico mio, eh? Eh sì, direi, eh. Ah, il buon brughiero ha fatto un lavorino fatto bene. Dalle sue verdi brughiere. Dalle verdi brughiere, arrivate, ci tira fuori questa magia dal cappello. Grazie, bene, grazie. E lo risentirete spesso, a me è piaciuto davvero tanto. Allora, andiamo con la rassegna della settimana. Dalla punta.org si inizia con oggi, lunedì 10 dicembre, alle 18.30, presso l'Unifia in Brunelleschi, abbiamo un aperitivo e proiezione della profezia dell'armadillo a cura del CUA. Domani, martedì 10 dicembre, inizia in Polveriera il laboratorio di teatro Post Work. Ne parliamo fra poco con Andreas, per adesso andiamo avanti. Martedì 10 dicembre alle ore 21 presso il Circolo del Progresso in via Vittorio Emanuele abbiamo la proiezione del film 12-12 riguardo a Piazza Fontana, naturalmente. Ultimo ciclo del ultimo appuntamento del ciclo Chiacchiere sul Code Reversing all'Emerson, organizzato dal A Club fiorentino IFDU. Ne parliamo questo mercoledì 11 dicembre dalle 19 alle 23 di Disassembler, A Complier e Debugger all'Emerson a cura di IFDU. Andando a giovedì abbiamo CPA, e cioè ceramiche popolari autogestite, dalle ore 18 alle ore 22 presso il CPA Firenze Sud, la presentazione di un corso di ceramica, ripeto, giovedì 12 dicembre dalle 18 alle 22. Giovedì 12 dicembre dalle 19.30 alle 20 presso lo spazio IAM in via Ghibellina la giornata del dopo studio Christmas Edition, a soli 3 euro cibo in quantità e una bevuta scelta tra spritz o vin brûlé, portate pochi spicci e la solita voglia di bere del CUA. Sempre giovedì 12 dicembre alle ore 20 abbiamo presso la Biblioteca di Lettere in Piazza Brunelleschi Merry Crisis, cena di Natale e concerto in Brune. Il programma prevede alle ore 20 una cena nel chiostro, alle ore 22:30 concerto dei Fishbones e dalle 24 DJ set fino a tarda notte. Venerdì 13 dicembre al Chiostro delle Leopoldine in Piazza Tasso dalle 16:30 alle 19 principia il Culturale, pomeriggio di presentazioni di libri organizzato dalla comunità contadina Jérôme Laronce. I libri sono di tre amici di Radio Wombat, Sul Confine, pedalando da Firenze a San Pietroburgo di Niccolò Giordano, Disegni ribelli, storie di lotta e libertà di Milena Prestia e La Fattoria delle Piante di Tito Toemi. Questo venerdì in Piazza Tasso, nel Chiostro delle Leopoldine, dalle 16:30. Sempre venerdì 13 dicembre, in l'occupazione di Via del Leone, in Via del Leone dal 60-62, dalle 18 abbiamo All Christmas Are Bastards, quindi con alle ore 18 la proiezione di un film, Bungie Users, poi alle ore 21 DJ set Afro Trap by TLF. Inoltre abbiamo questo fantastico concorso, gli auguri agli sbirri. I tre migliori biglietti di auguri che avranno scritti riceveranno sugosissimi premi, così dice la locandina. Riproponiamoci di ritrasmetterli a nostra volta. Sì, effettivamente poi potremmo farceli dare questi tre bigliettini vincitori e poi faremo buon uso. Mi ci impegno. Venerdì 13 dicembre dalle 18:30 corteo antifascista in Piazza Dalmazia, nel 50° anniversario della strage di Piazza Fontana e nell'anniversario dell'omicidio di Samb e Diop. Il fascismo è barbarie, fermarlo tocca a noi. 13 dicembre da Piazza Dalmazia. Un venerdì ricco di eventi, perché dalle 22 fino alle 6 di mattina presso Urania's Guot in Via dello Scalo numero 4 vi sarà Urania's ACAB Party Post Till The End, con la roboterie fino a tarda notte. No macio, no fasci, no omotransfobici, no ho tanti amici gay, no amici delle guardie, dai no. Venerdì 13 dicembre dalle 22 alle 3 al cantiere sociale Camillo Cienfuegos in via Chiella a Campi Bisenzio, sul palco del K100, per sostenere le spese legali dei compagni inguaiati con la legge, suoneranno gli Urban Viet Cong, Street Punk Oikore da Livorno e i Fisher Bones, Ska Punk Rap da Firenze. Anche i Quarantena, punk da Firenze, questo venerdì al Cienfuegos. Dai, bello, tra l'altro passeremo anche un pezzo di Quarantena. Evviva. Sempre rimanendo a venerdì 13 dicembre, il solstizio d'inverno 2.0 è la festa d'agraria dalle 22:30 fino a tarda notte al plesso di Agraria alle Cascine. Sabato 14 dicembre, dalle 16 in Piazza della Signoria, la guerra non è finita, giornata di mobilitazione internazionale organizzata da Rise Up for Rojava. L'appuntamento è il 14 dicembre in Piazza Santissima Annunziata, partecipiamo tutte e tutti alla giornata di mobilitazione internazionale. Secondo me è Piazza della Signoria. Benissimo, certamente. Cosa ho detto? Piazza Santissima Annunziata. No, Piazza della Signoria, Palazzo Vecchio. Meno male ci sei te. Sempre sabato 14 dicembre invece abbiamo Remember the 14th of December Night, Benefit Call Paul. Il 14 dicembre, stiamo parlando del 14 dicembre del 2012, se non mi sbaglio, quando a Roma vi furono gli scontri. No, secondo me era il 2011 o 2010, forse addirittura 2010, e quindi al CPA venne fatto un benefit per coprire le spese legali di quella giornata che fu veramente veramente calda. Dalle ore, se non erro, l'ho perso, scusate, dalle ore 21 fino alle 3, CPA Firenze Sud. Sabato 14 dicembre dalle 21 all'ex Emerson in via di Bellagio, dalle 21 Breaking Session e a seguire dalle 23 Eka e Schizzo presentano il loro nuovo album Sangue e Amore. Apre il live oggi Big Dub, a seguire DJ Set a cura di alcuni prandelli di Inner City Jungle, DJ Sec e DJ Antistatic. Questo sabato all'Emerson dalle 21 fino alle 3. E infine domenica 15 dicembre a Firenze, in piazza San Jacopino, pratichiamo autodifesa transfemminista nelle strade. In seguito è un presidio che inizia alle 15, in seguito alle numerose aggressioni che vi sono state nell'ultimo mese a Firenze, sia razziste che anche omofobe. Quindi, ripeto, alle ore 15 presso San Jacopino. Ho notato, siamo stati 30 secondi più lunghi del dovuto. Ai ai ai. Quasi. Dai, però non male. Oh, raga, siamo solo alla quinta puntata, dobbiamo ancora riprendere la mano. I dunque. I dunque, cavo tenuto con la mano e canzoncina. Dai. Quarantena? No. È molto peggio. Oggi sul prato si va di dar fuoco alla scuola, a cavallo del mio mostro d'armadio scatteremo polaroid shock a tutti gli studenti morti nel falò. Bla bla bla. Tedesco e il nostro amore è un serpente grasso e brindiamo le vostre ginocchia spaccate al brutto tempo e alla birra di castagne. Le felpe, le ferrovie e l'Inghilterra tastiera e di tasti come grappoli di scale a chiocciola, ma su si va dai graffiti del mercato. Bianco delle panchine che sono stanza, quando fumi ruggisci il mare e la Camarga, la brina nel Brancamenta, salpiamo su barca a vela con un giradischi ed una moca. Non puoi sposare Osgood. Troppo vecchio per me. E Jerry, non dici mica sul serio per caso. E perché no? Si è già sposato 7-8 volte. Ma tu sei un uomo, perché un uomo dovrebbe voler sposare un altro uomo? Per sistemarsi. Jerry, è meglio che ti dai, e tu non stai. Ma la smetti di trattarmi come un lattante, non sono uno stupido. Lo so che c'è una difficoltà. Ah, ecco, direi anche io. Sua madre ci serve il suo consenso. Ma non mi preoccupo perché io non fumo. Ebbene, questa era una citazione da Qualcuno fece caldo. Lo sai, io non l'ho visto. No, vabbè, guardalo. Io... è veramente un caldo. Sparano, sì. Allora, prima di passare agli argomenti seri, io avevo un paio di notizie da dare, così in anteprima, cioè no, non è vero in anteprima, però un paio di ragguagli anche su quello che abbiamo, sulle cose che abbiamo trattato la volta scorsa. Intanto, riguardo alle sardine, è uscito un articolo su InfoOut che si chiama Caro compagno, che schifo le sardine. Vi consiglio di leggerlo. È un'analisi un po' fuori dal coro sul movimento delle sardine. E insomma è un punto di vista secondo me da considerare. E sulla questione turistificazione ne abbiamo parlato per un paio di puntate, non settimana scorsa ma un paio di settimane fa almeno, e anche forse tre settimane fa. È uscito un decalogo che è stato pubblicato dalla Sunia insieme a CGL con una proposta di regolamentazione sugli affitti turistici. Ve lo potete andare a cercare sul sito del Sunia. E si intitola Turismo, Casa, Lavoro, CGL e Sunia presentano il decalogo per la sostenibilità nelle città toscane. Ok, sono d'accordo, è la CGL, è il Sunia, quindi non è, però intanto è quello che abbiamo a Firenze, è una proposta. Quando, insomma, poi magari con calma ne parleremo. Tornando agli eventi di questa settimana, abbiamo un paio di approfondimenti e il primo è sul laboratorio di teatro Post Work. Abbiamo qui con noi Andreas, ciao. Ciao ragazzi. Benvenuto. Ciao. Benvenuto. E si inizia questo martedì, cioè domani. Abbiamo l'appuntamento alle 18, giusto? No, alle 19, presso gli spazi della Polveriera. Che cos'è questo laboratorio post-work e che cosa si propone di fare? È la volontà di fare. E vogliamo mettere un po' di argomenti che ci interessano nel mezzo e portarli avanti, crescerli, sperimentarli un po', vedere che cosa succede. E l'idea parte da dopo lavoro, anche il nome è un po' collegato, sì, a questo. Quindi dopo lavoro si incontra e si vede che cosa si fa. Ci sono delle idee, poi vediamo da chi partecipa, che porta. Ecco, quindi fondamentalmente cioè, è un laboratorio vero e proprio, quindi chi parteciperà porterà delle idee, verranno sviluppate in modo collettivo, immagino. Sì, in modo orizzontale, collettivo. Cioè l'idea è che ognuno porta un tema che gli interessa sviluppare e poi tutti quanti insieme ci mettiamo a poter dire come, che metodo, in che direzione. Ok, quindi non sarà, diciamo, il teatro classico, non vi saranno rappresentazioni da testi già esistenti, bensì sarà proprio la creazione di materiale. Ma e anche poi da la testi messa esistenti. In esistenti, cioè, sì? non escludiamo che qualcosa può essere messo in scena da qualcosa di classico, di repertorio classico, di repertorio. Però l'obiettivo è di poter portare idee che magari le idee possono essere collegate anche a qualcosa che è già esistente, non è detto. Però la cosa principale è le idee che portano le persone. Ecco, e perché avete scelto la forma del teatro e non, che so, una forma radiofonica? E sono troppo difficile rispondere. No. Non mi sente come sto parlando. Allora, non lo so, è che la nostra esperienza, cioè noi ci siamo incontrati con la Francesca, l'idea è mia e della Francesca, quindi la nostra base. Il teatro è il nostro punto di esperienza, quindi ecco, ma ci entrambi, esprimiamo in questa maniera. Entrambi siete, che Francesca, vi abbiamo già visto recitare numerose volte in numerosi spazi e contesti, anche pubblici qua a Firenze, quindi una spiccata inclinazione, diciamo, sociale, vi si può facilmente riconoscere. Allora ti vorrei domandare che cosa significa fare teatro nel sociale, cioè proporre spettacoli e laboratori come questo in dei posti in cui non si è avvezzi a trovarli rispetto a invece quelli convenzionali. Quanta differenza c'è, se è difficile, se invece è una sfida che vale la pena raccogliere? Allora, è facile, difficile, più che altro è necessario, è indispensabile questo momento. Credo che in posti occupati c'è una maggiore libertà di parlare di delle tematiche che attualmente ci interessano. In altri posti credo che ci sono più difficoltà di trovare spazio e modo di parlare in alcune tematiche. E nel più specifico sempre succede che durante un corso di teatro, un laboratorio, in un qualsiasi posto, c'è sempre la rappresentazione finale e c'è sempre un altro secondo livello di lettura che succede durante il corso, quindi si sviluppano anche temi molto interessanti che si creano durante il corso, durante il laboratorio. Quindi noi ci interessano anche le dinamiche che si creano nei spazi, siamo abbastanza autocritici e vogliamo parlare anche delle nostre controversie, cioè nello stesso momento ci interessano i temi a 360 gradi, quello che succede, però ci interessa anche una autocritica profonda, che credo in posti occupati questa libertà di riflessione è maggiore. E a questo risponde anche quello che forse vi ho visto mettere in scena lo scorso compleanno del Cecco, fra l'altro, se non ricordo male, eravate proprio tre, Francesco. Infatti, il spettacolo era un piccolo spettacolo di 20 minuti, che il suono delle casse non ci ha lasciato nemmeno a sentire bene. Cioè, okay. Quindi è stato. Beh, stava certo, vicino, sì. Rave. Però. Si chiamava un esercizio di fisica irrisolto, appunto, per mettere in prova percorsi e tematiche che non hanno una soluzione, che solo lasciano riflettere. Quindi il nostro approccio, abbiamo parlato un po' di femminismo e di femminilità, però con un occhio critico, che non è niente risolto, non è niente definito, è tutta una questione da sempre da scoprire, sempre da cercare, sempre da fare domande, sempre da mettersi nel pezzo. Quindi ecco anche appunto il titolo. Ecco, e la vostra idea è quella di appunto un appuntamento settimanale o bisettimanale? Come funzionerà? Dove per verrà ora, svolto? Per ora abbiamo scelto martedì per motivi pratici. Il giorno è anche da definire, perché se la partecipazione ci costringe a cambiare sì. data, sicuramente anche il giorno va cambiato. Non è. Poi una idea era anche di poter uscire dal posto fisico, quindi uscire dalla polveriera e poter essere un po' più flessibili, frequentare altri posti, come per esempio ci interessava molto l'Urania, quindi anche per poter trovare questa flessibilità a frequentare altri posti e essere un po' mescolati con quello che succede negli altri posti ci interessa, però quello sicuramente dipende da chi parteciperà e le forze nostre se lo possono permettere. E a tal proposito mi sembra che hai già risposto implicitamente di sì, ma è aperto questo laboratorio anche a chi non ha fatto teatro prima di oggi? Sì, sicuramente abbiamo fatto un dibattito interno fra due persone, se doveva essere rivolto a qualcuno che ce l'ha già esperienza, perché così facilizza un po' anche noi che non ce l'abbiamo così tanta esperienza a livello didattico, cioè non è che noi facciamo gli insegnanti di teatro, no, quindi ognuno deve aiutare l'altro, quindi deve essere una cosa collettiva, no? E l'idea era all'inizio di avere a che fare solo con persone che hanno o minima di esperienza, però era alla fine un po' limitato questa cosa, e abbiamo pensato che doveva essere aperto a tutti, anche perché il nostro punto in cui vogliamo concentrare è la inclusione, quindi non è possibile di non accettare persone che non hanno esperienza, no, assolutamente no, ci interessa anche questa forza che qualcuno porta e le idee che portano anche persone che non ce l'hanno esperienza, perché l'idea secondo me è la cosa più importante, poi sviluppando da come la sviluppi sono diverse maniere, però l'idea è la cosa più importante. Beh, tutto molto chiaro, bello e condivisibile. Io, se posso, ti volevo fare un'ultima domanda: perché ci sono due astronauti nel volantino? Ok, allora questo è stato un po' a caso, e poi ha preso anche un significato un po' più profondo. Io con la Francesca ci siamo incontrati per un po' chiacchierare a livello di teatro, che cosa potevamo sviluppare, e poi frequentavamo tutti e due il gruppo di teatro della Polveriera, no? Quindi abbiamo deciso che per maggiore libertà di espressione e di riflessione di creare qualcosa in due. Una volta che ero in bagno e stavo sì, ok, stavi? Stavo viaggiando via Facebook e mi è apparsa la notizia di questa ragazza che era un'astronauta nello spazio, appunto. Samantha? Non lo so, non lo so, mi ricordo il nome. Ah, è diventata famosa Astro Samantha. Vabbè, comunque, mi lascia perdere. Forse non era Astro Samantha. Questo famoso articolo della Repubblica, forse della Repubblica, Può darsi, sì, può darsi. È possibile che era del, possibile, sì. Sì, che era della Repubblica, in cui parlava in modo un po' maschile di questa ragazza, quindi cioè, non, questa ragazza non aveva la forza di diventare un'astronauta perché era donna, ma perché per la prima volta sì, hanno lasciato una donna, quindi cioè, mi ha fatto riflettere su questo maschilismo anche in questi livelli, e da lì è partita l'idea che i due personaggi persi nello spazio che cercano di trovare una via, e sicuramente il dialogo dal Godot è ancora più significativo, perché appunto cioè, persi nello spazio, può succedere di tutto, puoi aspettare quello che non succederà o succederà, o il dialogo del Godot di Beckett, lo ricordiamo, sì, per chi sì, lo ascolta, sì, sì, accompagnava sì, il volantino sì, sì, sì, sì. Eh sì, bene, naturalmente tutto questo sarà gratuito. Sì, cioè, gratuito, non prevede certo lo scambio di denaro, bensì un impegno. Finché l'assemblea non mette, l'assemblea della Polveria non mette un biglietto. Mi hanno detto che sono pronti lì, con le ricevute. Certo, sì, sì, sì, abbiamo già il blocchetto per staccare scontrini. Va bene, quindi dai, rimandiamo a domani sera, che è martedì, il 10 dicembre, dalle ore 19. Dopo il 19, presso la Polveriera, che è situata in via di Santa Reparata 12R. Grazie Andreas. Grazie a voi, di nuovo. Ragazzi. E ci riaggiorniamo durante l'anno. Speriamo di averti. Sì, no, una cosa possiamo dirlo: avete un contatto. Sì, che dove una mail è possibile scrivere. Hanno una mail: laboratoriopostwork@chiocciolainsiberia.net. Quindi per qualsiasi informazione potete scrivere. Domani, insomma. Per chi mancasse domani, per chi arrivasse e ascoltasse il podcast della trasmissione un po' in ritardo, potete scrivere a questo indirizzo e loro vi risponderanno prontamente per accogliervi nel gruppo. Bene, allora mandiamo un pezzo e caro Andreas, ci vediamo in Polveriera, direi. Detto, ciao, ciao ragazzi. Ciao Andreas, grazie. Ciao. Una notte storica per i berlinesi e per il mondo intero. 50.000 persone hanno varcato il muro da est verso ovest, accolti dall'abbraccio fraterno di una città in festa. Non è caduto il muro, mi dicevano. Festeggio, ora sei libero di vivere. Non è caduto il muro di a Berlino est. Ho fatto le valigie per andarmene in giro per l'Europa. Corretti bianchi, marcelli grigi. La sanguisuga del capitale. E mangia bene sei sopra. A demolire il muro. Un fiume di folla in festa passa. I berlinesi dell'Ovest applaudono. Jerry, c'è un altro difficoltà. Quale? Hai pensato alla luna di miele? Ah sì, ne abbiamo già discusso. Lui vuole andare in Riviera, ma io insisto per le cascate del Niagara. Jerry, sei fatto dalle gare, ma come speri di farla franca? Ma non mi aspetto che duri, Joe. Gli dirò la verità quando verrà il momento. E cioè quando? E cioè subito dopo la cerimonia. Ah. Così otteniamo l'annullamento, lui mi dà una bella sistemazione e io mi becco gli alimenti ogni mesezzo. Jerry, ascoltami, ascoltami. Poi sono le leggi, le convenzioni, sono cose che non si fanno. Joe, forse è l'ultima occasione che ho di sposare un milionario. Prima della citazione avete sentito Quarantena, che suoneranno al Cienfuegos questa settimana, e quindi era un invito ad andare a sentirli dal vivo. Bene, allora, queste citazioni di qualcuno a qualcuno piace caldo ci introducono un po', leggermente, diciamo, all'argomento da trattare ora. E cioè, abbiamo questo evento del 15 dicembre, nessuna aggressione senza risposto, presidio transfemminista queer in piazza Saia Copino. Abbiamo qua con noi una persona che ci parlerà, è un attivista presso Urania Squat. E qui si parla di pratichiamo autodifesa transfemminista nelle strade. Ci puoi raccontare perché la necessità di questo presidio e anche un po', insomma, la storia che ci porta un po' a questo evento? Sì, allora, questa chiamata è il risultato di un'assemblea che si è formata a seguito della terza aggressione omofoba che c'è stata a Firenze in questo mese, di quelle di cui siamo a conoscenza. E appunto nasce per l'idea di voler dare una risposta a un clima che, se è partito dai migranti, poi arriva anche a noi froce e donne. E così ci siamo organizzate per dare una risposta anche con altre collettività, tra cui non una di meno, Firenze Antifascista, compagni e compagni vari. E nasce dalla volontà che, appunto, spesso quando si parla di omofobia si parla della legge sull'omofobia, quindi che lo Stato ci protegga, che noi siamo incapaci di difenderci, noi siamo quelli deboli, siamo quelli che non possono rispondere alla violenza quotidiana che dobbiamo subire in quanto froce o non etero o transessuali, intersex e tutto il resto. E invece possiamo farlo, la nostra idea è proprio partire da questo, quindi di prenderci una strada di una delle ultime aggressioni e prendercela noi, perché per ribadire che comunque gli spazi che attraversiamo ogni giorno, perché queste sono le nostre città, le nostre strade, non le lasceremo in mano a chi non vuole che esistiamo, semplicemente. E boh, che altro dire? Sì, no, allora, appunto, dicevi una delle strade dell'aggressione, quindi Saia Copino è una zona dove sono avvenute almeno due di queste aggressioni, se non mi sbaglio. Una lì vicino. Una lì vicino, ok. Quindi, diciamo, si può ritrovare una matrice in queste aggressioni, secondo voi, oppure no? Beh, sicuramente è la via dove tutti sanno che c'è stata, per ora pare che sia chiusa, però c'è stata per più di 3 anni la sede di Casa Pound, quindi questa sicuramente non la rende una via molto semplice per il loro lavoro. Detto ciò, appunto, anche in assemblea ci siamo confrontate su questo, e quello che ci interessa ribadire è che in ambito omofobo e sessista, appunto, la violenza, per quanto i fascisti li riconosciamo come sicuramente il 90% del problema, la violenza contro di noi non è operata solo dai fascisti. No, la violenza contro di noi la può operare qualsiasi individuo che si sente attaccato dalla nostra esistenza. E quindi sì, se ci ribadiamo il concetto di antifascismo militante, assolutamente, però ribadiamo che comunque abbiamo a che fare anche con una violenza che a volte sta anche dall'altra parte, che a noi anche l'operaio a cui siamo comunque solidali perché sfruttato al lavoro ci può comunque aggredire. Quindi ribadire che costruire una coscienza omofoba all'interno delle lotte è necessario, e anche adesso, nel senso. Esatto, poi fra l'altro voi accomunate, quando dite l'autodifesa, noi vogliamo l'autodifesa, accomunate un po' il potere delle istituzioni, hanno un potere patriarcale, se non mi sbaglio. Sì. perché partiamo dal presupposto che il patriarcato e la violenza patriarcale non è solo nelle istituzioni, ma è alla base di ogni istituzione, e che queste istituzioni usino i nostri corpi, le nostre istanze per farsi belli magari un mese l'anno quando c'è il Pride. E poi come il PD adesso con la legge contro l'omofobia, quando non solo non hai mai fatto assolutamente niente contro l'omofobia, ma gli omofobi siete anche voi. Inoltre la legge contro l'omotransfobia, a parte che appunto ci sono stati casi come in Emilia-Romagna che è stato persino rifiutato di usare il termine fobia, ma è stata chiamata omotransnegatività. Come se fosse solo una cosa che ci vedono in negativo, ma c'è gente di noi che muore, nel senso. E comunque, vabbè, questa gente qui a noi non ci interessa e ci vogliono proteggere, primo. E secondo, la legge contro l'omotransfobia per noi criminalizza la possibilità di autodifendersi, il che significa che non solo comunque con una legge le aggressioni continueranno, ma che se ci difendiamo poi veniamo anche criminalizzati. Come succede in America, il caso più eclatante fu di Chacha McDonald, che era una donna trans e nera aggredita da tre nazisti. Accidentalmente uno dei suoi aggressori è morto durante l'aggressione e lei ha quasi rischiato la pena di morte. E quindi, cioè, a noi di questa legge non ce ne frega assolutamente niente. Vogliamo impedire le aggressioni, sia dando le risposte collettive nostre dal basso, sia creando percorsi culturali che distruggano l'omofobia alla base, che non dopo un'aggressione vogliamo la punizione, vogliamo che smettano le aggressioni, punto. Ecco, questo è un po' questa necessità, è anche un po' la base dell'apertura, della liberazione dello spazio di Urania, giusto, che è avvenuta quest'estate. Sì, Urania era anche la volontà, sì, di questo, ma soprattutto di avere uno spazio dove noi Froce potessimo avere un confronto, anche un po' rivendicandoci il fatto che sì, anche noi possiamo occupare, anche noi possiamo uscire da determinate logiche di assorbimento che il capitalismo ha messo in atto sul movimento gay, e che appunto c'era l'esigenza, soprattutto adesso che il movimento transfemminista inizia a avere un minimo di attenzione, di provare a sperimentare un'occupazione che per ora va, quindi Ecco, è stato occupato in estate, a a giugno, maggio. a maggio. Quindi si parla già di 6 mesi, no? 6 mesi di occupazione. Che cosa avete, non so, che cosa avete incontrato in questi 6 mesi? Che cosa avete fatto? Potete un po' tirare le somme, di cosa avete bisogno anche? Bisogno di tantissime cose, tra mobili e qualsiasi oggetto per rimettere a posto un po' la casa, quindi qualsiasi cosa di strutturale. Cosa abbiamo incontrato? Allora, il posto che abbiamo scelto è stato un posto nella periferia dell'isolotto, volutamente anche lontano dal centro, sia perché non ci interessava fare un lavoro sulla città che ormai è in mano a turisti e basta, e che quindi non incontra persone con cui noi vogliamo costruire relazioni, inoltre perché l'isolotto era un quartiere che ci interessava, essendo uno dei pochi quartieri con ancora appunto un alto numero di residenti di Firenze, tra cui anche molti migranti, che era un altro punto che ci interessava. È vicino alle zone di battuage di Firenze, quindi di cruising maschile e di prostituzione femminile. La fauna appunto che abbiamo incontrato era proprio quella che volevamo incontrare, nonostante appunto sembra un posto così vuoto, così è, in realtà tutta la gente allontanata dal centro ci siamo resi conto che sta venendo spinta verso in lì, e quindi abbiamo incontrato da persone trans, semplicemente vanno a fare le passeggiate lì, alle sex worker, ai migranti, con cui i migranti diciamo è stata la parte con cui siamo riusciti inaspettatamente a costruire più rapporto, fino a appunto chi pratica cruising lì vicino, anche operai tornando a casa dal lavoro, gente a caso, giovani dell'isolotto, tra cui appunto giovani anche queer che alcuni neanche sapevano di esserlo e che hanno trovato uno spazio dove poterlo praticare. E quindi, nonostante ciò, pur essendo appunto in un punto che sembrava abbandonato, abbiamo trovato una marea di corpi che ci interessava. No, fra l'altro, io, se devo essere, cioè, personalmente, cioè, un posto secondo me bellissimo. Mi affascina tantissimo, sia per la posizione che proprio anche per come è La fatto. struttura. E non solo, è stata anche un'occasione per. È è un'occasione per scoprire una parte della città che io fondamentalmente ignoravo, quasi totalmente, perché così, nell'immediata vicinanza al Ponte all'Indiano, quindi in una, si può dire quasi una giungla di viuzze, sentierini, passerelle, quindi è veramente sempre interessantissimo venire a Urania. Ma a proposito dell'incontro, invece, avete anche incontrato nel vostro percorso fin qua semestrale altri collettivi, altre realtà d'Italia che già dal giorno dell'occupazione sono venuti a Firenze, sì, a supportare e sostenere? Sì, sicuramente tante compagne di altri collettivi queer d'Italia, come compagni e compagne di Firenze, e anche tante persone semplicemente queer incuriosite. Abbiamo avuto compagne francesi, spagnole, portoghesi, spuntate così all'improvviso, ci ha fatto molto piacere, che avevano letto, sono scese, così come altre collettività più giovani, come gli studenti del collettivo Artemide, che sono il collettivo queer del liceo, non mi ricordo quale liceo, scusate, e poi altre, appunto, le realtà vicine a noi, quindi anche laboratori smaschieramenti, così come l'ex Atlantide, che era l'altro posto queer d'Italia storicamente. Quella Bologna? Sì. Così come tutte le persone froce anche della città, anche che non ci aspettavamo potessero essere attirate da uno spazio comunque occupato, comunque anche in campagna, e dici non è proprio l'ambiente della frocia normata, e invece abbiamo riscontrato che comunque gli eventi vengono interessate. Bomba. Beh, cioè, da dire che di eventi ne fate veramente tanti, perché... Infatti prima della manifestazione a San Jacopino di questa domenica, questo venerdì allo Spazio Urania c'è una serata, giusto? Sì, con la roboterie, poi sono a Moder, e appunto anche lì appunto, è importante venire, perché l'autofinanziamento di anche il corteo di domenica sarà costruito lì, quindi venite e bevete. Divertitevi. E appunto la roboterie anche con loro, sono una crew tech queer che ha molti anni al suo passato, e sono quelli con cui comunque, anche grazie al quale Urania è stata possibile, nel senso, senza il loro aiuto a farci fare le serate e gli autofinanziamenti che abbiamo fatto, Urania non ci sarebbe stata. Quindi anche Urania ha un percorso di aiuti anche precedenti all'occupazione, che sono tutte le persone che si sono mobilitate per permetterla, fondamentalmente. Bene, ma non so se possiamo farlo. Ci sono... Diciamo la tua foto adesso. No, ci sono un paio di date di avvicinamento alla manifestazione al presidio del 15. Se non mi sbaglio c'è un appuntamento per fare degli striscioni. E, sì. Che è? Il 13 in Corsica, prima del corteo, quindi verso, esatto, le 3. Perché poi alle 6 ci sarà il corteo per San Bediop. E appunto poi chi vuole c'è la festa, e poi il 15 ci sarà questo presidio. Dopo il presidio si sta pensando di organizzare anche una festa, non il 15, un'altra giornata, però ancora è tutto in divenire, quindi non abbiamo altre informazioni da dare. Bene, abbiamo un nuovo ospite. C'è un cucciolo qua. È arrivato un cane in regia. Benissimo. È molto più divertente la radio nostra di Radio Capital. Molto più. Ciao Radio Capital. Benissimo. Allora dunque, rimandiamo, dai. Ci vediamo sicuramente venerdì a Urania e poi domenica al presidio. Prima in Corsica per le striscioni. Esatto, presidio, sì, striscioni in Corsica nel pomeriggio. Il corteo per San Bediop alle ore 18 in Piazza Dalmazia, e poi domenica il presidio dalle ore 15 in Piazza San Jacopino, perché insomma le aggressioni stanno diventando abbastanza frequenti, e quindi urge assolutamente mettere uno stop. Con questo, dai, noi facciamo uno stacchetto musicale. Avanti. Cosa ci metti? Sono incerto. Non ero pronto. Non eri pronto? Metti tre allegri, ragazzi. Dai, che vanno sempre bene. Morto. la foto di quando son partito. Son passati molti anni e quasi non mi riconosco. Il viaggio è stato lungo e il tempo si è divertito a disegnare sul mio corpo tutto quello che ho vissuto. E se quando torno sarò vivido, e i soldi avranno fatto i soldi sul mio viso, la foto mi dirà quello che sono stato. Dovrei esserci, eccoci sì, qua, sì, sì. Infatti. Bene, dai, allora siamo in chiusura, però qualche piccola considerazione. Intanto una, no? Che relativa alla Funta, alla Funta.org. È un po' cosa che ci ha stupito a noi, ma un po' a tutte le persone che incontriamo, il fatto che da quando esiste la Funta.org ci rendiamo conto che ci sono tantissimi eventi in città. In verità Firenze è una città che promuove veramente una sottocultura che è frizzante e che porta in superficie tantissimi eventi, tantissimi temi. Il venerdì sera in particolare è una serata dove si batte forte. Ogni venerdì ci sono almeno 5-6 eventi, gli altri giorni meno, il sabato si rallenta un po', però ecco, per la prima volta, almeno io da quando esiste la Funta, per la prima volta ho avuto un'impressione generale di quello che succede negli spazi in città, e sì, non è poco, sono rimasto veramente stupito. L'ho avuto anch'io, l'hanno avuto anche tanti altri attivisti, compagni e militanti, percezione diffusa, ma ti voglio anche dire che non siamo a pieno regime ancora, perché ancora mancano delle realtà e degli eventi che noi ci sforziamo di caricare, ma speriamo che molto presto riescano a essere sempre più condivisi anche questi passaggi. Verissimo. Sì, perché ricordiamo che La Punta è un sito sul quale i vari collettivi, le realtà e gli organizzatori caricano loro stessi gli eventi. Per fare richiesta di un account per pubblicare sulla Punta si può direttamente scrivere alla form presente sul sito. Eh sì, esattamente. No, e fra l'altro una delle cose che meno balza all'occhio è il fatto che sulla Punta vi sono sia gli eventi, quelli diciamo saltuari occasionali come possono essere le feste, i benefit, i cortei e via discorrendo, ma vi è anche la possibilità, quando andiamo a cliccare sul segno della ricerca, vi è la possibilità di spuntare sugli eventi quelli settimanali, invece quelli ricorrenti, e cioè quando le assemblee, non so, ad esempio c'è pizze, il cinema che è stato tutto il lunedì e via discorrendo, l'apertura delle palestre, l'apertura dei vari corsi che si svolgono gli assemblee, degli laboratori. Quindi veramente vi si può trovare di tutto. Non è molto intuitivo forse fare questo, perché bisogna cliccare sulla lente di ingrandimento in alto a sinistra, ma ci siamo super mega ripromessi da qui a un mese di avere prontissima una nuova versione del sito. È così. Questo qua è una delle migliorie che verranno apportate a breve, proprio perché si tratta di una piattaforma autogestita, vi è la possibilità di correggere in corsa tutti gli errori. Detto questo, possiamo ancora ricordarvi i nostri contatti, postawombat@lensiberia.net per scriverci, potete scriverci pure su Facebook, che è Radio Wombat, il nostro blog è wombat.noblogs.org, la nostra frequenza è la 13.59 AM, ci dobbiamo scusare se nell'ultima settimana, 10 giorni, non riusciamo a trasmettere sulle frequenze, ma abbiamo dei problemi tecnici che purtroppo ancora non siamo riusciti a risolvere. Lo saranno a breve. E che ci faranno tornare molto più forti e potenti. Torneremo nell'etere ben più forti e potenti di prima, questa è la verità. Ci stiamo solo preparando. Ci stiamo caricando, fondamentalmente. Detto questo, che famo? Ci sentiamo lunedì prossimo. Viva Radio Wombat. Viva lapunta.org. Amate e sostenete le autogestioni. Vi lasciamo con un pezzo che il nostro buon Mario ci declamerà. Non me l'aspettavo nemmeno. Dai, questa. Sono pronto. È questo. È regia e spiegheraggio insieme. Wombat. Live to live. They say, only. Rassegna eventi. E ora guardate le mercanzie che ho portato. No! Ma questi sono acidi! Davvero, 3 blu e 3 orange. E che sono? Acidi. Acidi come? 3 blu e 3 orange. Oi! Orange? Ragazzi, ma in che vuol dire LSD? Lupi senza domani!